Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Adesso vi dico il tema, poi vi dico in cosa consiste l'originalità di questa trasmissione. Il tema è quello che avevo già iniziato ad accennare ieri, su cui ieri mi ero già soffermato, con un'esperta dei linguaggi giovanili. È il tema della partecipazione delle emozioni umane attraverso i social network, area di esposizione considerata unico ed esclusivo retaggio di una fetta di umanità, comunque in parte dotata di una certa predilezione per la singolarità o per la stranezza o addirittura per comportamenti di tipo perverso o non rituale, e d'altra parte di una equazione esistenziale limitata alla giovane età. Il punto di rottura rispetto a questo atteggiamento è la madre di Jenny Galloni, ragazza barese di 24 anni che viveva a Bologna con dei suoi coetanei, trovata morta l'altra mattina nella sua cameretta nell'appartamento che condivideva con altri amici, con la fattispecie non indifferente che fosse incinta di 4 mesi. La madre ha pubblicato sul profilo Facebook della figlia la foto del cadavere della figlia. È una foto in sé non peggiore di tante altre foto di cadaveri esposte in rete, ma che rappresenta secondo me un punto di novità. Una madre che espone il cadavere di un figlio è una madre che chiede giustizia sulla morte di quel figlio. È già accaduto altre volte, è accaduto dai momenti epici in cui le madri hanno figli uccisi in guerra, uccisi da persone che si sono fatte incarnazione del male. Le madri di Plaza de Mayo in Argentina andavano velate in piazza portando i ritratti dei figli morti. Quante volte avete visto un'immagine epica di una madre con il cadavere del figlio che lo porta dalla battaglia, dal luogo dell'uccisione, un figlio ucciso per mafia, ucciso da malviventi, ucciso semplicemente in una faida fra persone che vivono nello stesso posto ma non sanno conciliare le loro diverse esigenze. La madre Gianni Galloni ha fatto una foto al figlio, alla figlia morta, e l'ha messa su Facebook. La foto è corredata da un'invettiva che assomiglia a una maledizione biblica. Se la prende con gli amici della figlia e dice: «Dopo che ho visto voi, gente di merda, scrivere di mia figlia, ora voglio che voi la ricordiate come purtroppo questa immagine non me la leverò più dalla mente. Ora non la potete più toccare con le vostre sporche mani, con le vostre false parole, con i vostri plagi. Non potete più invitarla a fare festa, ai rave. Non potete più fottergli i soldi, non avete intenzione di restituirli mai. Se n'è andata sapendo dentro di sé che eravate persone di merda e di merda resterete sempre». E andando avanti, continua a prendersela con gli amici del figlio. Non voglio entrare in merito se sia giusto, se sia sbagliato, se veramente c'è qualcuno che abbia responsabilità di questa morte. Per dovere di cronaca vi dico che hanno fatto l'autopsia e non hanno trovato nessuna circostanza rilevante sul fatto che sta ragazza sia morta. È morta e basta, come accade a un essere umano, di morire. Per la madre in quel momento non era sufficiente questa spiegazione. La figlia comunque era in un ambiente che lei non condivideva, con persone con cui non condivideva, comunque aveva un'invettiva da fare e un nemico da colpire, che erano le cattive amicizie. Sempre i genitori tendono ad assolvere i figli dai comportamenti che non giudicano regolari e sempre i genitori attribuiscono a qualcun altro la colpa di questi comportamenti irregolari. Questo secondo voi è motivo sufficiente per esporre il cadavere di un figlio? Voi avreste forza, coraggio, stomaco o sareste in linea con i tempi sapendo che la piazza in cui esporre il vostro figlio morto per richiedere vendetta su quella morte più frequentata dalle persone che possono avere ragione con la morte è proprio la piazza virtuale, è proprio il social network dove stanno gli amici della figlia? Fareste una foto al vostro figlio morto e la mestereste in rete? Sareste capaci di farlo? Trovate che è un gesto che comunque rappresenta il punto di rottura con il pregiudizio rispetto ai social media, che sono un luogo frequentato soltanto da giovinastri. Una signora barese con una figlia di 24 anni non è esattamente una nativa digitale, eppure ha fotografato il cadavere della figlia e l'ha messo su Facebook. 800240024, tra un istante. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24. Vi ho invitato a riflettere su un episodio realmente accaduto di cui parlano oggi i quotidiani. Già accennai ieri in anticipo nella trasmissione che ho fatto a questi microfoni della radio. La madre di Jenny Galloni, ragazza 24enne, trovata morta nel suo letto a Bologna, ha pubblicato su Facebook la foto del cadavere della figlia. Un cadavere non composto, esattamente come l'ha visto lei nel momento che per la prima volta è entrata in contatto con la figlia morta. Mi scrive subito un ascoltatore attraverso SMS: Nicoletti, metterei solo la foto del tuo cadavere su Facebook, sei prossima a schiattare. Che argomento di merda, proprio come tu, sei solo un maniaco, anzi un maniacazzi. Questa è la prima reazione, naturalmente, di una persona totalmente fuori dalla contemporaneità. Non si rende conto del significato di questo fatto, che un gesto arcaico, un gesto antico, un gesto che conosciamo, passa attraverso i social network. La madre l'ha fatto realmente, io schiatterò sicuramente, prima o poi come schiatterà il signore che mi ha scritto, ma voglio riflettere qual è stato il motivo profondo e la modalità attraverso cui una madre ha fatto un gesto del genere, andando ad invadere una zona che pensavamo, secondo un pregiudizio che non ho mai condiviso, unico retaggio di giovani generazioni. Sento intanto Nicola. Nicola, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Guardi, io in primis faccio esprimo la mia vicinanza alla signora. Sì, vabbè, non è importante in questo momento. È superfluo, ogni giorno muoiono migliaia di persone, anche uccise, ammazzate, massacrate. Non possiamo essere vicino a tutti. Certamente, però è una vicinanza di umanità per tutti. Sì, ho capito, andiamo al punto. Non bisogna forza vedere di essere buoni. Sì. Andiamo al punto. Non è questione. Al punto io penso che non sia giusto, perché per due ordini di motivi. Primo, perché è un dolore da essere vissuto intimamente come fatto privato, con la vicinanza degli amici, delle persone che le hanno avuto bene, che effettivamente condividono questo dolore. E poi in secondo, il parere della povera ragazza che è morta, ma il suo consenso, lei cosa avrebbe fatto? Ma come si ottiene il consenso, scusi, con una seduta spiritica? Ma lei che lo avrebbe voluto fare questa cosa, avrebbe avuto piacere? Ah, non ha lasciato, non sapendo che una ragazza di 24 anni pensi di morire nel sonno, è un po' difficile. Comunque le rispondo subito, rispondo perché grazie a Dio ho materiale fresco, ho testimoni della contemporaneità che possono rispondere. La domanda che farei, dice la madre, come faceva a sapere che la figlia avrebbe gradito di essere esposta come cadavere su Facebook? Stefano, buongiorno. Ciao, quanti Gianluca. Anni hai, Stefano? 26. Stefano è uno degli allievi del Master di Radio New Media Management e Content, poi lo dico più semplicemente, ragazzi che vengono qui al Sole 24 Ore per imparare a fare radio. Non che io pensi di avere strumenti didattici, ma faccio radio da tanti anni. Stefano, secondo te, in qualche maniera, indirettamente, Jenny ha lasciato alla madre gli strumenti per fare poi della sua immagine anche post mortem quello che volesse? Direi di sì, anche perché basta proprio guardare il profilo di Jenny. Oltre al nome e cognome, c'è scritto in memoria di. Questo vuol dire che il profilo è stato reso commemorativo, vuol dire che qualcuno ha possibilità di anzitutto indicare che tu sei deceduto, che tu sei morto, e quindi che tu l'hai disegnato come tuo erede in caso tu fossi passato a miglior vita, e quindi poter gestire il tuo contatto nel modo migliore che uno possa decidere. Per cui è ovvio che magari la figlia abbia disegnato la madre come sua erede. Questo che state ascoltando vi sembrerà banale e indifferente, è un dato informativo che nessun giornale ha riportato. Nessuno si è posto il problema dei tanti colleghi che oggi hanno scritto su questa vicenda, ma non che gliene faccia loro una colpa. Nessuno aveva a disposizione un materiale fresco di quasi nativi digitali, lui un pochino più grande per essere considerato nativo digitale, ma una persona che frequenta, vive e si relaziona attraverso i social media come se fosse una dimensione reale e concreta della sua esistenza, della sua relazione. Mi dice che in realtà il dato che è sfuggito a tutti, che la madre avesse i privilegi di amministrare quel profilo Facebook, perché la figlia, e questo dimostra molto da un punto di vista informativo, che aveva comunque un rapporto di fiducia con la madre. Non era una figlia ribelle, tutti sono fermati a descrivere i piercing, i tatuaggi, le foto della figlia nuda o spogliata o in atteggiamenti irriverenti. La figlia aveva un rapporto stretto con la madre, talmente stretto che le aveva dato il privilegio di essere sua erede della sua eredità digitale, della sua ombra digitale. Quindi la madre ha fatto quello che pensava fosse la volontà della figlia, esattamente. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a lei, anch'io la penso come lei, perché appunto la avevano delle cose che i ragazzi non danno ai propri genitori, la propria identità su Facebook. Ma poi le volevo dire un'altra cosa, a me è capitato molti anni fa che una mamma ha perso il figlio 14enne che amava tantissimo in un incidente stradale, la mamma ha tempestato il quartiere di Roma di tutti i manifesti con il figlio vivo e il figlio morto a terra, proprio per dare un monito a tutti gli altri ragazzi di quello che poteva essere. Ognuno poi elabora il lutto come vuole. Allora, lei che è romano sa esattamente quelli che sono i cimiteri on the road, facilissimo vedere nella nostra città. Se va nel viale di Tor di Quinto, che è il viale che dallo stadio va verso il raccordo anulare, è pieno, quasi ogni lampione c'è la foto di un ragazzo lì schiantato, con le bandiere della Roma, della Lazio, con i fiori, con gli scarpini da calcio. Sono dei simulacri, dei ricordi, delle forme di elaborazione di un lutto fatte in maniera estemporanea e rituale, se vuole. Esattamente la stessa storia. Mettono le foto dei figli, non sono le foto dei figli morti, sono i figli ancora vivi, ma in qualche maniera si crea una sorta di luogo in cui c'è il ricordo del figlio morto. Ma in particolare questa è una figlia morta non in maniera regolare, in maniera ingiusta. La madre palesemente fa capire che attribuisce una responsabilità, se non altro morale, ambientale, agli amici della figlia, della morte della figlia. E quindi mette sotto gli occhi dei figli l'esito di quello che considera un cattivo esempio. Giulia, buongiorno. Giulia, mettiti davanti al microfono. Sono ragazzi che vogliono fare radio per la prima volta, entrano in uno studio radiofonico. Pensavano di fare mesi di teoria, li trovo già immediatamente di fronte al microfono. Giulia ha espresso questa mattina durante la lezione un suo dissenso. Giulia, riassumo, è una ragazza che non vuole essere su Facebook, considera i social media come un elemento, un filtro dell'imbecillità umana, un po' la posizione alla Umberto Eco. Dammi innanzitutto il tuo giudizio su questa immagine che hai visto per la prima volta o che te l'ho fatta vedere io, davanti al microfono, in asse con il microfono. Scusate, ma proseguo la lezione. Allora, la mia opinione è sicuramente che... Si riferisce al fatto che questa foto sicuramente è cruda, e il gesto sicuramente è crudo, è un gesto di dolore, e il dolore ognuno di noi può decidere di metabolizzarlo in maniera diversa. Quello che non comprendo, e che forse mi rifiuto di comprendere, è il perché questa signora abbia voluto fare questa cosa. Non è un monito, è un monito che per me non ha senso. Questa ragazza... è morta per colpa di nessuno. Non è un Ilaria Cucchi che mostra la foto del fratello ucciso in circostanze ancora da accertarsi, tra l'altro, è comunque sgradevole. Però è una foto che ha determinato tutta un'azione giudiziaria. Quella foto, io la vidi per la prima volta, mi sembrava irreale vedere le foto di un cadavere ricucito sul letto di un obitorio. Eppure da quella foto è nato tutto un movimento di opinione forte. Secondo me in quel caso è stato giusto. In quel caso smuovere le coscienze e l'opinione pubblica per cercare la verità, quello è il modo giusto di utilizzare la crudeltà e la bruttezza della morte. In questo caso mi risulta un po' incomprensibile, perché sicuramente il dolore di questa donna è grande, ma non capisco che funzione abbia mostrare questo corpo. Per quanto il dolore possa essere incomprensibile, noi non possiamo capirlo perché non siamo né genitori né, per fortuna, nessuno di noi ha mai vissuto niente del genere, ma comunque mi risulta ancora inspiegabile. Alessandro, allora ad Alessandro faccio una domanda. Nella narrazione di questa storia, che ha già una sua dimensione epica, non ne staremmo a parlare ai microfoni di una radio nazionale se questa madre avesse semplicemente fatto una foto della figlia nella migliore delle sue condizioni, una foto della prima comunione, di un momento felice, e questa foto oggi fosse apposta in un manifesto funebre per le vie di un paesino della Puglia. Sarebbe stato un evento triste, crudele, saremmo stati tutti vicino a questa madre, almeno nelle intenzioni fittizie che si esprimono quando bisogna esprimersi in termini di circostanza, ma nessuno ne parlerebbe. Secondo te cosa c'è dietro il gesto di questa madre? Buongiorno a tutti. Sì, come dicevo prima a Giulia, lezione due piani sotto, secondo me, come dici tu, ha un carattere quasi sublime, talmente forte, brutta, possiamo dire brutta come cosa, che ha quasi un carattere sublime, come diceva per esempio Lucrezio nel Dare l'onoratura, la felicità di stare sulla terra ferma guardando i poveracci che stanno per morire sulla nave. C'è anche questo carattere. Poi io facevo un esempio sempre letterario, perché comunque è il mio humus, è il mio mondo. Citando Dostoevsky, che appunto nell'immaginario generale adesso secondo me ha scalzato anche Shakespeare e Proust nella classifica, nella top 10 Abbassa il livello, perché la radio mi dicono deve essere pop. No, scusa, mica devi vergognarti. Degli scrittori più dico abbassa il livello perché tu lo alzi. Stavo infatti per dire degli scrittori più fighi. Sì. Se va bene. Così sono tutti contenti. Comunque prendeva in modo morboso, anche cattivo, utilitaristico, le notizie macabre, sanguinolente, dalle cronache nere. Quindi prostitute uccise, patricidio per esempio, che è il nocciolo dei fratelli Karamazov per esempio. E adesso è diventato per tutti, per me, per te, credo anche per Giulia, il simbolo dello scrittore bravo, ma un po' di più, quasi sacro. Molti hanno detto che i fratelli Karamazov è un testo sacro, come la Bibbia, come dicevi tu, ha un carattere sacrale questo quindi esercizio. Questa madre sta sovrascrivendo i nostri punti di riferimento letterari attraverso un gesto epico. Sì, come dicevi tu, il salto generazionale imprevisto. Sentiamo Guglielmo da Torino. Buongiorno Nicoletti. Sì. Volevo solo ricordare questo, cioè lei ha parlato di una nuova forma probabilmente di funerale, cioè io le garantisco che nel 65 persi mio papà e il feretro da quando uscì di casa fino al raggiungimento del cimitero fu seguito da un fotografo professionista che documentò con le foto tutto quanto l'avvenimento. Documentò la bara, il contenitore del cadavere. Il cadavere è altra cosa. Questa è una foto della figlia, si vede già la macchia nera che si sta creando all'altezza del fegato, che sono il primo segnale, diciamo, di decomposizione del cadavere. È tirata sulla maglietta per mostrare il ventre. Non è una foto banale. La foto della figlia è nel rigore della morte. C'è sempre stata una sacralità rispetto al cadavere. Ci fosse stata una specie di social network di anni 65, secondo lei, non... Ma io parlo... Lei avrebbe postato la foto di suo padre morto? No, io non l'avrei fatto. Beh, lei pensa che invece all'origine della fotografia era normale, soprattutto nei paesi della Latino America, ma anche alle nostre latitudini, c'è un film fantastico, The Others, che mostra questa consuetudine. Fotografare i morti, però li imbellettavano, il bambino morto, lo mettevano una scopa dietro per farlo star dritto, lo mettevano insieme ai fratellini, lo vestivano con i vestiti e con i giocattoli perché rimanesse sempre vivo. Avevano possibilità così di mantenere l'idea che fosse ancora vivo, perché ancora non era ben gestibile l'idea della fotografia. Oggi, dopo decine e decine di anni, un secolo e mezzo da quelle foto dei bambini morti, riappare la bambina morta di questa madre, perché è un circolo che continua comunque a rappresentare l'irrappresentabile attraverso lo strumento di massima frequentazione in questo momento. Ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo trattando con un parterre di persone in studio informate dei fatti il caso di Jenny Galloni, ma non tanto di lei, della madre Jenny Galloni, che ha postato su Facebook la foto del cadavere della figlia. Mi scrive un ascoltatore, dice: Facebook decide in autonomia di far diventare commemorativo un profilo. Successo qualche giorno fa con mio fratello appena mancato, dice Fabio. Noi abbiamo iniziato la trasmissione spiegando cosa sia un contatto erede, lo ha spiegato Stefano. Rientriamo nell'argomento rispetto a quello che dice l'ascoltatore. Intanto grazie al contributo dell'ascoltatore che ci ha scritto questa cosa e condoglianze alla persona che è mancata, però proprio dal centro assistenza di Facebook. Non fare condoglianze a una persona che non ti porta nulla, no, veramente, perché la gente se ne accorge. Senso di vicinanza comunque, no, torniamo no, comunque. Non bisogna mai ostentare sentimenti che non si provano alla radio, perché la gente se ne accorge. È giusto, fa parte di una capacità di educazione alla socialità, però scusa, non è che ti voglio sembrare cinico, ma ci mancherebbe, segue poi la lezione. Anzi, dai, no, avanti, spiega. Torniamo proprio al nocciolo della questione. Dal centro assistenza di Facebook, per cui non è che cerchiamo notizie chissà dove, proprio è Facebook che te lo dice. Un contatto erede è una persona che scegli, è una persona che scegli per gestire il tuo account, per cui e sarebbe, penso, anche un'invasione della privacy non da poco. Il fatto che Facebook si arroghi di scegliere o di far diventare commemorativo un... anche che non sa Facebook se tu come muori. Fa? Esatto, come fa? Cioè, posso capire? No, non posso capire. Io guardo che te lo dica. Ho molti amici morti, compagni del liceo, c'è ancora il loro profilo Facebook, perché nessuno ha pensato di toglierlo, di chiedere a Facebook di chiuderlo, e ogni anno, nell'anniversario della morte, gli amici scrivono, ti ricordiamo, via dicendo. È come fosse un cimitero digitale della morte di questa persona. Voglio sentire adesso Enrica, proprio su questo fatto del contatto erede. Se tu dovessi lasciare l'eredità della gestione della tua ombra digitale a qualcuno, chi la lasceresti? Microfono, mi raccomando, in asse con la bocca. Alzalo un pochino, ecco, perfetto, sì, facciamo. Ecco, vai. Beh, in realtà non saprei, probabilmente perché non ho un'eredità digitale da lasciare a qualcuno. Questo lo dici te. No, non ho un contatto Facebook. Sì, anch'io faccio parte di quelli che non hanno un contatto Facebook. Ma tu hai un'ombra digitale, sai quanto esisterà in termini di byte, di gigabyte, di terabyte, di tua ombra digitale? Tutta, pensa, ti dico, tutta la burocrazia, tutti i documenti che parlano di te. Tutte le foto che comunque di te esistono, perché qualcuno ha tue foto, qualcuno ha tue foto digitali. Quelli che nascono oggi hanno addirittura anche l'ecografia digitalizzata messa sui Facebook. Noi abbiamo la nostra ombra digitale, se fosse stampabile in volumi, avresti una pila alta, questo è un esperimento che fece Focus qualche anno fa, dalla Terra alla Luna 10 volte. Questa è l'ombra digitale nostra tradotta in carta. Quindi tu ti illudi non avere un'ombra digitale. Tu ogni volta che entri in banca vieni memorizzata comunque. Tu semplicemente quando hai lasciato il tuo documento all'entrata del Sole 24 Ore, nel computer della signora ti ha preso i dati, c'è una parte digitalizzata della tua vita, quindi tu hai un'ombra digitale. A chi la lasceresti, ti domando? Questa è una riflessione che forse richiede un po' più di tempo. A tua madre? Potrebbe essere, ma ripeto, forse è una riflessione che richiede un po' più di tempo, anche se forse si dovrebbe partire ab origine un po' dalla presunzione del perché a qualcuno dovrebbe importare di gestire o comunque di ascoltare o di leggere, di vedere quella che è la mia eredità digitale. Ma sai, una delle forme che noi abbiamo per illuderci che la nostra vita continua è quella di pensare che qualcosa di noi rimanga. Oggi abbiamo un'occasione enorme, la nostra vita minuto per minuto rimane da qualche parte. Ti faccio allora, ti specifico la domanda. Lasciarla alla madre da parte di una ragazza di 24 anni che vive libera, che vive in maniera del tutto informale, che si espone anche con foto nei locali, che balla, che canta, che si spoglia, è rappresentativa di un legame stretto fra quella madre e quella figlia? Presumibilmente sì. Ecco, qui si tratterebbe di entrare nelle maglie di un rapporto che purtroppo non possiamo giudicare perché non conosciamo. Però abbiamo degli elementi oggettivi. La madre ha lasciato il contatto erede, la figlia ha lasciato il contatto erede alla madre. Quindi si fidava della madre. Tutto quello che stava nel suo profilo Facebook, la madre lo sapeva. E questo darebbe corpo all'idea che la madre accusa dei ragazzi di cose che non sappiamo. I soldi non li avete ridato, voi siete degli infami. La madre ha letto tutta la corrispondenza, anche le chat, anche la corrispondenza privata che la figlia aveva sul suo profilo Facebook. Cosa ne dici te, Stefano? Allora, in realtà questo non lo so, perché comunque il contatto erede non può gestire l'account in quel senso. Cioè se tu mi designassi come tuo erede, io non posso gestire il tuo account, però posso, come lo gestisci tu, continuare a pubblicarci. Esatto, come pubblicheresti tu, però posso pubblicare proprio come erede, è una cosa leggermente diversa. Quindi non entro, diciamo, nello specifico, nel profondo di quello, esatto, che ho scritto. Però di fatto sei tu che gestisci l'account, più o meno come una pagina. E solo per terminare la risposta di prima, sempre dalle linee guida dal centro assistenza di Facebook, se a Facebook viene comunicato il decesso di una persona, c'è tutto questo meccanismo per cui interviene il contatto erede, per cui c'è sempre qualcuno, c'è una persona fisica in carne e ossa che deve dire questa persona è morta. Diciamo che la madre l'ha fatto nel giro di poche ore, perché la foto è apparsa praticamente quasi all'istante della scoperta della morte. Sì, dovevi dire qualcosa. Sì, la domanda a questo punto, almeno quella che mi faccio io, immagino si facciano moltissime persone, è il perché, cioè l'esigenza, l'immediatezza della condivisione di un dolore che innanzitutto ritengo sia intimo. Primo. Secondo, sottoporre, costringere gli altri, magari anche chi non è interessato, a subire un'immagine forte, violenta. Non si rischia poi di normalizzare una violenza e di creare una ipersensibilità che poi in un secondo momento porti addirittura a un'insensibilità rispetto alle immagini. È uno dei tanti problemi che ci si pone di fronte a questo, ma il mondo sta cambiando il concetto della privatezza, il concetto di quello che è la nostra vita privata, la nostra vita pubblica. Dobbiamo riconsiderare, stiamo scrivendo in questo momento la storia della contemporaneità, non abbiamo certezze. Devo ancora sentire Massimiliano che non ha parlato. Sì, buongiorno a tutti. Io alza la voce. Sì, sono d'accordo abbastanza con quello che dice Rica, però c'è anche da dire una cosa. Se andiamo indietro nel tempo, e qua mi ricollego alla letteratura e all'epica che aveva prima annunciato, anche aveva toccato Alessandro, lo stesso Achille, quando uccise Ettore, prese Ettore e fece un giro col carro per far vedere chi aveva ucciso, a fare vedere il corpo di Ettore. Cioè, se Achille avesse avuto, secondo me, uno smartphone, avrebbe fatto la foto, avrebbe mandato su Facebook la foto di Ettore morto. Sono dei casi totalmente diversi. In quel caso era un'uccisione gloriosa che sanciva il nemico vinto. Però in questo caso è un figlio da vendicare, perché c'è un motivo dietro che non sappiamo. C'era anche da vendicare per Achille, c'era da vendicare la morte di Patroclo. Certo, quindi è sempre una vendetta, che quella della madre può essere considerata anche una vendetta contro la società stessa. Quella società in cui la figlia, attraverso le foto di Facebook, si era creata una vita. È un attacco oggi, personale alla società. Oggi, il commento che ho fatto sulla stampa è esattamente questo. La madre lancia un messaggio forte. A torto ragione ce l'aveva con qualcuno che giudicava responsabile. Non è detto che sia da un punto di vista giuridico vero o reale o accertabile, ma secondo lei le cattive amicizie erano responsabili quella morte. Sentiamo qualche ascoltatore. Maurizio, velocissimo. Sì, buongiorno a tutti voi. Scusate, non vorrei farmi prendere un po' dall'ansia parlando di questo argomento che mi ha toccato molto da vicino. Nel 2009 purtroppo perdo mio figlio in Germania, faceva il cuoco e naturalmente molti amici, molte conoscenze, succede che lui aveva un profilo Facebook, però naturalmente non è che lo seguisse. Fatto sta che dopo che è deceduto, io casualmente girando ho visto sul suo profilo foto dello schianto nell'automobile con tutti i particolari, cosa che non avrei mai... E chi l'aveva pubblicato queste foto? Bisognerebbe saperlo. Allora ho dovuto intervenire con le forze dell'ordine tedesche, chiaro, hanno fatto chiudere, però dico, ecco, questa mancanza di sensibilità. C'era qualcuno che diceva, ma noi volevamo bene a suo figlio, era giusto che la gente dovesse partecipare, ma scusate un momentino, io sono il papà, potrò capire, avere una certa sensibilità, per capire che questa cosa qua, sì, il ricordo c'è, il ricordo della mia famiglia, gli amici se lo ricorderanno come gli amici, ma... Le dico, anche se non ho strumenti, non ho autorità e non sono nessuno per poter parlare di una cosa così legata alla sua esperienza, quei ragazzi probabilmente hanno una percezione non ancora maturata di quello che siano gli spazi d'espressione digitale, sul fatto che quegli spazi potrebbero essere comunque condivisi da un padre che non crede che sia in quel momento opportuno vedere la foto del figlio schiantato in automobile. Nei loro linguaggi, nei loro codici, nella loro acerba maniera di usare questi sistemi potenti di espressione di se stessi, hanno pensato probabilmente era la maniera migliore, questo voglio pensare, per commemorare l'amico morto. Dal suo punto di vista è chiaro che era qualcosa di atroce, ma fa parte delle incongruenze, delle apparenti ingiustizie, delle incapacità di gestire un mondo che si è evoluto in maniera velocissima. Soltanto 10 anni fa non avremmo avuto nessun argomento per trattare questa materia, oggi ne parliamo. Fra 10 anni probabilmente ci daremo delle spiegazioni in più. Ci fermiamo un istante, tra poco. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, nell'istante in cui ascoltavamo l'interruzione abbiamo avanzato un'altra ipotesi con i ragazzi del master sulla radiofonia che stanno qui in studio con me, in particolare Alessandro. Alessandro, tu poni un'altra ipotesi, dilla tranquillamente. Sì, non voglio sembrare particolarmente o troppo, non fare premesse, o troppo dai l'ipotesi, te ne prendi la responsabilità, sì, esatto, comunque esatto. Anche se fai certo, una premessa, dai. Esatto, ricerca di celebrità attraverso social network e attraverso un evento incredibile per quella famiglia, ovviamente per quella persona, cioè sicuramente spostare in un tempo epico anche un momento di lutto. Sì, se almeno 1%, uno 0,99% ci può essere anche di sfruttare questa occasione cinicamente ma anche lucidamente, perché comunque nel momento della morte, ma ha ragionato questa persona, perché ha compiuto dei processi virtuali, tecnologici e multimediali non comunque troppo semplici e banali. Certo, ha operato. Quindi lucidamente. Quindi c'è una ricerca di un profilo, ha fatto, esatto, una foto digitale, ha pubblicato una foto digitale, ha fatto una lunga didascalia a questa foto. Sostituzione al cadavere come oggetto celebre della madre. Allora, voglio sentire Giulia. In epoca che precede la vostra età della ragione si parlava molto di TV del dolore. È un periodo in cui cominciava a essere considerato un genere televisivo in cui la rappresentazione del dolore, delle tragedie, dei casi umani diventava materia ricca della televisione. Anche in quel caso famiglie, persone, eredi, testimoni, genitori andavano in televisione a raccontare l'atrocità della loro esperienza. Può essere te, Giulia, che sei una persona che ha ancora un rapporto conflittuale con il social networking, che ci sia stata anche questa forma di elaborazione di un lutto attraverso la celebrità, la ricerca di una celebrità. Sicuramente in molti casi così è stato, ma sicuramente in molti casi i programmi che trattavano di questi dolori in questo modo applicavano sicuramente una sorta di strategia di marketing, sicuramente gli ascolti aumentano, sicuramente attirano molto di più le notizie brutte che quelle buone, sicuramente siamo affascinati dagli omicidi, dalla morte, dal macabro e dal grottesco, e sicuramente forse in qualche caso questa signora, la madre di Jenny, è stata molto coerente. Ed è una coerenza forse un po' brutta, un po' grottesca, ma è stato coerente col modo attuale che abbiamo di vivere i social media. Enrica, gioie e dolori ferma. Sono giusto, sbattuti sui social. Ti seguo. Vorrei Enrica. A proposito delle immagini, cioè sì. Un conto, Giulia poco fa ha fatto riferimento al caso di Cookie, un conto è rendere pubblica un'immagine. Infatti mi hanno scritto la differenza con il caso esatto, Cookie. Esatto, un conto è rendere pubblica un'immagine che testimoni una presunta violenza, una presunta ingiustizia. Come a dire, ve la stanno nascondendo, io ve la mostro. È molto diretto, dice, vi ha prestato dei soldi, non li avrete mai ridato. Sì, però io nell'intenzione della signora vedo in parte la ricerca di un capro espiatorio che probabilmente in questo momento non c'è, come d'altra parte sembra ci testimoni la l'autopsia. Quando ti muore un figlio, certo. Qualunque cosa è buona per elaborare un dolore, sta bene tutto, anche dire che è colpa di qualcun altro. Però anche lì, come diceva Alessandro, probabilmente la spettacolarizzazione di un dolore, di un dramma che... non credo possa essere... Io mi asterrei di dare giudizi in merito all'etica, alla morale, al buon gusto. Ci deve morire prima un figlio per dire come ci si comporta in quei casi. Fermi, zitti, parlano un po' gli ascoltatori. Daniele, da Pescara. Buongiorno, Nicoletti. Io, ascoltando la trasmissione, ho fatto una riflessione. Io sono disabile e passando tanto tempo a casa, passo tanto tempo su Facebook e sui social media. Se dovessi morire e mia madre scegliesse di fare una cosa del genere... Lei ha nominato sua madre come contatto erede? Scelgo di nominare tutta la mia famiglia. Tutta la mia famiglia sa le mie credenziali di accesso su Facebook. Ah, quindi tutta la sua famiglia ha le sue credenziali. Può comunque elaborare quello che vuole sul suo profilo. Beh, questo è un grosso gesto di fiducia, vuol dire che lo spazio della privatezza social per lei è uno spazio da condividere in ambito della sua famiglia, quindi è una sua scelta, è una scelta logica, lecita. Quindi la sua famiglia si comporterebbe, lei ha la consapevolezza, esattamente secondo le sue volontà, come uno lascia scritto voglio essere cremato, voglio essere seppellito in quel posto, voglio che i miei beni siano dati in beneficenza, non voglio fiori ma opere di bene. Lei ha la certezza che se lei dovesse morire, la sua famiglia farebbe l'uso che secondo lei è proprio e congruo della sua memoria digitale. Questo è il senso? Come ha detto lei, sarebbe anche un modo per restare vicino a loro. Va bene, lei, sì. lei ha già lasciato una disposizione, senza saperlo ha già lasciato disposizioni funebri. La sua famiglia sa già che, spero che non avverrà mai, spero di precederla in questo viaggio, essendo lei più giovane di me, ma però le posso dire che lei ha già lasciato comunque un lascito testamentario, anche seppur di beni non concreti, alla sua famiglia. Gastone da Torino. Gastone. Buongiorno Nicoletti. Sì, buongiorno Nicoletti. Dunque, un fatto avvenuto 20 anni fa, Marco è mancato di fronte al mare facendo apnea, quando i carabinieri l'hanno trovato era legato in profondità a una corda e ha fatto delle foto. Quello che non mi sono mai spiegato è perché il padre ha preso queste foto, ha fatto dei manifesti e li ha incollati sugli alberi del viale dove abitavano. Non ho mai capito se per una pietà nei suoi confronti del cioè le foto stesso. Del cadavere del figlio annegato? Sì, la foto presa direttamente dai carabinieri, questo ragazzo in costume da bagno con la testa in giù, legato per i piedi a questa sagola sott'acqua naturalmente. Ma è stato un delitto oppure no, un incidente? Assolutamente no, un incidente in apnea. Evidentemente il padre reputava qualcuno responsabile della morte del figlio, oppure anche il padre, per la stessa ragione in cui ci ha detto prima l'amica qui al microfono, ritiene che una forma per elaborare questo suo dolore è quello di dare celebrità alla morte del figlio. Guardi, la morte di un eroe, la morte degli eroi rappresenta comunque qualcosa che passa alla storia. Dei martiri più gloriosi del nostro risorgimento, se va nel Museo del Risorgimento a Roma, si conserva l'ampolla con il sangue di un morto dei martiri di Belfiore, l'osso del collo di un altro impiccato. Anche la morte, che è un evento fatale e tragico, ha la sua rappresentazione gloriosa, e con gli strumenti che hanno a disposizione questi genitori fanno esattamente la stessa cosa che facevano gli antichi quando facevano monumenti. Alla prossima, grazie.